Allora, io sono Mark Tibaldi, grazie agli organizzatori dell'invito e grazie di averci invitato in questo luogo che credo che porti anche le memorie di lotte contadine. E noi come progetto Terra e Libertà Critical Wine abbiamo scelto come logo. Lo vedete qui il forcone che è un po' è il simbolo delle lotte contadine attraverso i secoli. Il progetto Terra e Libertà Critical Wine e il libro nascono nei luoghi dell'autogestione, nei luoghi metropolitani ma non, e cittadini, ma non per questo meno interessati alle tematiche dell'agricoltura, dell'alimentazione, del consumo, eccetera, nascono appunto nei centri sociali su provocazione, da una provocazione, da un'amicizia con Luigi Veronelli, ci sollecita ad occuparci dei temi che lui chiama i temi della terra, che sono appunto quelli dell'agricoltura, dell'alimentazione e del consumo. Perché lui dice la sinistra e la sinistra radicale, alternativa, ha purtroppo dei ritardi, non ha mai riflettuto seriamente su queste tematiche ed è giusto iniziare a farlo in maniera articolata. E su queste provocazioni date da Veronelli, che è stato l'importante giornalista, il più importante rappresentante della cultura enogastronomica in Italia, che ha capito che aveva uno spirito libertario e però che aveva capito facendo il lavoro che faceva che la terra era importante, la diversità era importante, la biodiversità era importante ed era uno la valorizzazione di queste diversità dei territori, dei terreni e delle culture era una maniera per contrastare i grandi gruppi di interesse, le grandi distribuzioni, le grandi multinazionali. E da queste provocazioni, mettendo assieme le culture più svariate, che sono quelle che poi caratterizzano i luoghi dell'autogestione, che sono quelli dell'autonomia, quelli del situazionismo, delle culture alternative, si è creato un circuito virtuoso di pensiero e di pratiche. Siamo partiti con delle iniziative che sono state momenti di coinvolgimento di produttori, di vignaioli all'inizio, ma poi non solo di vignaioli, e nello stesso tempo momenti di riflessione sui temi appunto del consumo, dell'alimentazione e dell'agricoltura, temi che ovviamente negli ultimi anni erano stati portati alla ribalta da tutta una serie di esperienze che voglio ricordare, sia italiane che internazionali. Ricordiamo le lotte dei Semterra in Brasile, le lotte della Confédération Paysanne in Francia, ma poi tutta una serie di una sensibilità che è nata negli ultimi anni su questi temi e che ha caratterizzato le lotte da Seattle in poi. Dei movimenti, per cui i gruppi d'acquisto solidale, le lotte di boicottaggio ai marchi delle multinazionali, eccetera. Ecco, noi volevamo cercare di tenere assieme questa sensibilità, ma cercare di andare al di là. E in questi momenti al Centro Sociale La Chimica di Verona, a Leoncavallo, a Brescia e in molte altre situazioni, al Forte Prenestino a Roma e in molte altre occasioni abbiamo coinvolto i contadini sia per fare in maniera che ci presentino i loro prodotti e ci raccontino il loro lavoro, ma anche appunto dei momenti di riflessione. E credo che questa sia la caratteristica sia del libro che del progetto, cioè una ricerca di un'elaborazione teorica legata ai temi della terra e che non vuole avere niente a che fare con un ritorno alla terra in senso localistico, in senso reazionario, come purtroppo fanno i fascisti e i leghisti di tutte le forme e risme, ma occuparsi dei problemi della terra in maniera, con una sensibilità che noi abbiamo definito sensibilità planetaria. L'introduzione del libro è scandita dagli atti della sensibilità planetaria proprio per far capire che è importante la terra, e noi la scriviamo terra, la scriviamo sempre con la T minuscola barrata T maiuscola, proprio per parlare sia della terra dove che calpestiamo, ma anche della terra in senso di pianeta che abitiamo e che vogliamo vivere senza confini. E per cui questa dimensione teorica e anche delle proposte molto pratiche. Le proposte molto pratiche sono quelle legate alla tracciabilità del prodotto, del prezzo, e con la proposta anche del prezzo sorgente, la tracciabilità del prodotto con le proposte dell'autocertificazione delle denominazioni comunali a cui Vronelli teneva in maniera particolare, che denominazioni comunali che altro non sono che una sorta di autocertificazione comunitaria di un determinato prodotto, per cui tracciabilità dei prodotti e dei prezzi, qualità dei prodotti ma anche qualità delle relazioni sociali che stanno alle spalle del prodotto. E su questi binari stiamo continuando questa esperienza che nei prossimi mesi avrà molti appuntamenti da Verona a Cremona a Genova a inizio giugno che dopo questo libro ha altri obiettivi come un catalogo di autocertificazione dei produttori che vorremmo presentare con un evento a fine anno, un grosso evento organizzato a Leoncavallo a fine anno e con altre idee. Cos'altro dire? Sul libro, il libro contiene, oltre a questa parte introduttiva scandita appunto dagli atti della sensibilità planetaria, contiene dei racconti di vignaioli e di contadini, di quelli che noi abbiamo chiamato i poeti della terra, cioè delle persone che credono profondamente in quello che fanno e lo sanno raccontare in maniera magnifica. Contiene delle riflessioni teoriche come quelle di Gianni Emilio Simonetti o di carattere più sociologico come quelli di Maria Rosa Dalla Costa e poi tutta una serie di materiali pratici. Io direi che per adesso può bastare così, magari passerei subito la parola a Pino Tripodi che è un po' è l'ideatore della proposta del prezzo sorgente, anche perché qui ci sono molti rappresentanti della CIA che ha presentato una proposta abbastanza analoga a quella del prezzo sorgente, anche se noi non vogliamo che la proposta del prezzo sorgente sia una cosa che passi per legge, ma che sia basata sul principio di responsabilità e che sia sempre abbinata anche all'autocertificazione. E magari lui può tratteggiarci meglio la proposta del prezzo sorgente e dirci altre cose.